Mix 24 di Giovanni Minoli. La notizia in 3D. Noi ascoltiamo chiunque e contemporaneamente però ribadiamo il messaggio: questo è un paese che deve cambiare, è un paese che ha bisogno di entrare in modo molto forte nel futuro, e per questo non ci faremo bloccare dai veti o dalle opinioni negative. Non possiamo che confermare un giudizio negativo. Troviamo tutte le conferme della necessità della manifestazione del 25 ottobre. Nessuno toglie diritti. Il diritto del lavoratore è a che sia sanzionato il licenziamento quando non ha una giusta causa. Penso che Renzi abbia scientemente scelto di aprire un conflitto e di produrre una separazione tra chi avrebbe diritti e chi non ne avrebbe. Questa è la reazione dopo l'incontro di ieri tra governo e sindacati. Susanna Camusso, ieri isolata, resta la principale avversaria dell'abolizione dell'articolo 18. Noi abbiamo fatto un fact checking, cioè un confronto fra le parole e i fatti, con gli amici di Pagella Politica su una dichiarazione del segretario della CGIL del 19 settembre rilasciata a Repubblica. Per la verità, i lavoratori protetti dall'articolo 18 sono il 60% di chi lavora. La dichiarazione di Susanna Camusso è falsa. Il totale di lavoratori che godono della tutela dell'articolo 18 sono 9,7 milioni di lavoratori, mentre rimangono scoperti dalle tutele dell'articolo 18 13,2 milioni di lavoratori. Quindi i lavoratori protetti dall'articolo 18 sono il 40%, non il 60%, come ha detto la Camusso in quella dichiarazione. Inoltre, se andiamo a vedere la situazione dei giovani, scopriamo che tra i 15 e i 29 anni hanno un contratto a tempo indeterminato 1,4 milioni di lavoratori sotto i 30 anni, mentre ci sono 13,2 milioni di lavoratori over 30 con un contratto a tempo indeterminato. Quindi, oltre un'evidente disparità di trattamento che tutti conoscono, il trend ci svela che l'articolo 18 sostanzialmente si estinguerebbe naturalmente se il mercato del lavoro rimanesse invariato. Ma intanto ieri Renzi ha deciso che si vota. Ecco, onorevole Civati, buongiorno. Lei ieri ha scritto addirittura al Presidente della Repubblica contro il voto di oggi. Per dirgli cosa? Per far presente che noi stiamo mettendo una fiducia su una legge delega che è già uno strumento largamente fiduciario, per di più una legge delega molto vaga, e oggi si vocifera di un intervento in aula del ministro Poletti che a voce darebbe qualche indicazione. Noi siamo arrivati alla fiducia orale, che è una nuova... È una nuova forma. Ma le ha risposto il Presidente della Repubblica? Le ha risposto? No, il Presidente della Repubblica non mi ha risposto, non mi aspettavo, diciamo, una risposta così veloce. Ah. Non me la merito nemmeno, forse però dovrebbe riflettere l'opinione pubblica su quello che stiamo facendo, perché il rischio che questa norma, se appunto ci saranno dei decreti successivi, non sia costituzionale, non sia corretta. Senta, onorevole Civati, però Renzi ha detto che non teme agguati oggi, fa bene? Votate tutti? Ma non c'è nessuno, no, qualcuno non voterà, ma non ci sono agguati, non c'è nessun complotto, non c'è nessuna preoccupazione se non quella di fare una legge che non funziona. Oltretutto lei faceva delle... Vabbè, ma allora cosa fate? Votate tutti una legge? Lei vota, sì. No, io non sono in Senato, però se fossi in Senato non parteciperei al voto oggi, sì. Sinceramente, perché il nostro programma elettorale va da un'altra parte, perché il dibattito ha assunto dei tratti molto lontani dalla verità, perché questa delega appunto non scrive le cose che lei diceva, io non le condivido, ma insomma, se fosse scritto quello che diceva Giovanni Minoli, se la delega fosse Minoli, potremmo discuterne. Con una delega così è molto complicato. Senta, alla fine, oggi, qual è il vero punto di contrasto fra lei e Renzi? Beh, ce ne sono purtroppo tanti, e quindi questo mi interroga profondamente. Il prossimo? Secondo me il prossimo sarà lo sblocca Italia. Se vuole ci colleghiamo settimana prossima. Certamente. Perché anche lo sblocca Italia... Perché? Cosa prevede? Perché prevede alcune cose che secondo me non stanno né in cielo né in terra, come la proroga delle concessioni autostradali, quelli che si mettono insieme per allungare il proprio mandato, diciamo, che mi sembra. Vabbè, di questo ne parleremo allora la settimana prossima. Ma ce ne sono tante altre. Questa è una norma liberale, così almeno potremmo farla non da sinistra, se Renzi avesse una resipiscenza. Senta, ma che cosa la Camusso ha definito le soluzioni di Renzi thatcheriane? Lui ha detto che i suoi modelli sono Blair e Clinton. No, a me sembra che il suo modello sia Ichino, diciamo, per la verità, nel senso che la sta scrivendo Ichino questa normativa sul lavoro. A me non piacciono mai le giuste posizioni storiche, i confronti, i paragoni, mi sembrano così, insomma, molto propagandistici, per cui non penso che sia la Thatcher, penso che sia Renzi, e io non sono molto d'accordo. Senta, ma lei pensa che sull'articolo 18 la Camusso ha ragione o torto? La Camusso ha ragione, anche se lei notava che la proporzione è diversa, perché sì, conta anche i lavoratori autonomi, credo che nel conto della Camusso non ci fossero quelli. Ha ragione, perché l'articolo 18 è stato già riformato, perché non c'è motivo di creare uno stress pazzesco nel dibattito pubblico, quando il vero problema è ridurre la precarietà. No, senta, abbiamo un ascoltatore, Ivano da Udine, al volo. Ivano, buongiorno. No, lei è un operaio in cassa integrazione? Esatto, e l'articolo 18 non mi serve proprio niente, non mi serviva neanche quando lavoravo, perché il mio lavoro lo facevo bene, quindi non c'erano problemi. Il punto è la tutela quando si perde il posto di lavoro, non quando si lavora. Voglio un articolo 18 per chi perde il posto di lavoro, formazione che il sindacato non fa mai, parla tanto, e tutela delle aziende che hanno lavoro e vengono abbandonate a se stesse, prima di tutto del sindacato. Grazie Ivano. Ecco, questo. Sì, io però, no, ci mancherebbe, Ivano ha le giuste preoccupazioni di chi è in un momento difficile, però il problema è che non è che a togliere i diritti a qualcuno poi automaticamente ce ne hanno gli altri. Cercheremo di capire, ad esempio, nella legge di stabilità qual è la copertura su questo ammortizzatore di cui Renzi parla come universale, e vediamo se davvero riesce a coprire le persone come che sono nelle condizioni di Ivano. Io un po' dubito, ma non per colpa di nessuno, ma perché le risorse sono molto scarse. Senta, quindi c'è una domanda di Mario Secchi. Buongiorno Civati. Vabbè, buongiorno. Se il voto va come va, la domanda secca è: ma voi che ci fate nel PD? Però dovrebbe farla metà PD, perché in realtà anche quelli che votano la fiducia, moltissimi faranno un documento molto duro su questa legge delega, quindi forse è come si ricompatta il Partito Democratico su una linea più condivisa, questa è la domanda. Poi personalmente sono in difficoltà, come noto, perché iniziano a essere tante le cose che non condivido. Beh, ma scusi, ma allora perché non esce? Perché credo in un grande partito, perché ho fondato il Partito Democratico, perché mi dispiacerebbe mollare, insomma. Sono due margini di battaglia interna. Intanto si muove qualcosa anche dentro il gruppo renziano, no? Ho visto qualcosa descritto da Cerasa sul Foglio ieri. Dice che ci sono anche i renziani inquieti. Beh, è inevitabile che ci sia una tensione con un leader così forte, può piacere molto, può piacere meno, però forse c'è bisogno anche di un dibattito. Vitalità democratica. Pietrangelo Buttafuoco. Buongiorno onorevole. Buongiorno. Ho una curiosità, non tanto al politico ma a chi pensa, all'intellettuale, ed è questa: il nodo è sempre la modernità, il rapporto che ha la sinistra con la modernità. Allora, non vorrei seminare zizzania, faccio seguito a quello che diceva Mario. Mi sembra difficile che uno come lei possa affidare a Renzi la responsabilità di trasformare la sinistra fino a snaturarla. Allora la domanda è questa: ma a questo punto non era meglio Bettino Craxi nel suo rapporto con la sinistra, in quello che stava costruendo, in quello che poi ha determinato proprio nel rapporto con la modernità, è un'idea tutta socialista? Guardi, io purtroppo ero troppo giovane, credo che però la frattura tra PSI e PC di allora abbia qualche affinità con la situazione attuale, anche nella percezione, no? Tra una modernità molto veloce e un tradizionalismo accusato di essere spento. Secondo me le cose non sono proprio così, quindi c'è bisogno di più politica, se questa era la sua domanda. Sì. L'operazione di Craxi era molto più politica di quella di Renzi. Sì, ma l'operazione di Renzi è molto più arcitaliana e sicuramente non di sinistra. Questo è quello che penso anch'io. Sotto il profilo delle cose che stiamo dicendo, è quello che penso anch'io, per quello che il disagio che Secchi sottolineava c'è, cioè, oggettivamente, non è un segreto, non è tattica. Qual è lo sviluppo? Lo sviluppo lo troveremo nei prossimi mesi, vedrete che ci saranno delle evoluzioni. Magari Renzi vorrà andare a votare e lì sarà l'occasione. A quanto le dà le elezioni in primavera? Io sempre di più, guardi. Va bene, ogni volta aumentiamo. Questa volta quanto siamo in percentuale? Chiudiamo. 75-80 me. Grazie Civati, allora ci risentiamo. Grazie. A presto. Sono molte le sfide da affrontare, sul piano politico l'abbiamo sentita. Una di queste però riguarda tutti noi ed è la gestione dell'invecchiamento della popolazione. Io mi sento come un leone, sono pronto a battermi con il mondo intero. Vicino a te mi sento in paradiso e mai più staccherò i miei occhi dal tuo viso. La la la la la la. Ehi Joe, ma lo senti? Andrà dietro alle donne finché non gli marcirà il pisello. No, no, no, no, sono troppo vecchio per questo genere di cose. Ma sta zitto, l'età non conta. Ehi, che si fa? Non lo so. Organizziamo una festa. Ci divertiremo. Tu porti salsicce e banane e Ben invece la mozzarella. Ehi, un momento, non esageriamo. Cerchiamo di ragionare e di non commettere errori. Oh, sì, è Ben. Vero. Non dobbiamo divertirci troppo. Dobbiamo ricordarci che siamo vecchi, vecchi, vecchi, vecchi, vecchi. Beh, voi fate come vi pare. Io voglio divertirmi. Buonanotte, vecchietti ramolliti. Un successo è contemporaneamente un problema della società moderna. È la popolazione che invecchia sempre di più. Però perché sia una conquista è necessario che la vita, sì, sia sempre più lunga, ma anche libera dalla disabilità. Per questo è nato il progetto Sprint, il primo progetto che mette insieme pubblico e privato sul piano europeo per studiare e contrastare le complicazioni dell'invecchiamento. Il progetto Sprint studierà quindi per 2 anni una popolazione di 1.500 soggetti di 11 paesi europei, over 70, non disabili ma lenti, cioè un po' compromessi. Molti studiosi, medici, esperti italiani avranno un ruolo molto importante e fondamentale in questo progetto. Ma intanto questo fenomeno che dimensioni ha? In Europa vivono 500 milioni di persone, in Italia abbiamo raggiunto quota 60 milioni. Il nostro paese assiste ad uno stravolgimento demografico che affianca la crescita della popolazione, cioè il crollo delle nascite. Si calcolano circa 1,2 figli per donna, quindi un tasso di natalità bassissimo, mentre gli over 65 sono in continuo aumento. Se nel 1960 gli ultrasessantenni sono l'8%, nel 2014 sono il 22% e nel 2060 si prevede che saranno il 32%. In Italia quindi oggi si contano 12 milioni di ultrasessantacinquenni. Questo fenomeno è più o meno condiviso con gli altri paesi europei. L'Italia è il paese più vecchio insieme a Germania e Giappone. 800 24 00 24, numero verde. 349-238-6666 l'SMS. Ecco, il problema è che l'invecchiamento si accompagna alla disabilità. Cioè, si è fatto troppo poco per garantire che gli anni conquistati con l'allungamento della vita media permettono poi agli anziani una vita autosufficiente. Per ora, infatti, non è così. In Italia, nel 2010, abbiamo 3.700.000 disabili tra gli anziani. Quindi una pessima qualità della vita a costi molto alti, 25 miliardi, cioè il costo di una manovra finanziaria. Nel 2050 il costo di queste disabilità sarà sui 35 miliardi. Allora chi pagherà? Quindi l'invecchiamento della popolazione inizia a preoccupare molto, non solo i medici, le famiglie, ma anche le istituzioni. Walter Ricciardi, presidente del Consiglio Superiore della Sanità. Noi non abbiamo alternative, dobbiamo fare questo tipo di progetti, dobbiamo intervenire per cercare di far sì che la vita lunga sia anche una vita vissuta in buone qualità, in questo modo riduciamo anche i costi, cioè rendiamo il sistema sostenibile. Che voi pensate che la situazione demografica che noi abbiamo in Italia, gli Stati Uniti che già si stanno attrezzando in materia la raggiungeranno nel 2050, i paesi cosiddetti in via di sviluppo, l'Indonesia la raggiungeranno nel 2090, quindi e si stanno preoccupando adesso. il sistema non è sostenibile, cioè non è che c'è un dubbio, non è sostenibile. Già adesso voi vedete che in molte regioni italiane di fatto gli anziani sono abbandonati a loro stessi, perché chi non si può permettere una badante di fatto non si muove. Questo è un problema che riguarda tutti, gli anziani, le famiglie che devono occuparsene quando ci sono naturalmente, e lo Stato che deve provvedere in qualche modo a gestirli e a sostenerli. Professor Roberto Bernabei, geriatra, responsabile del progetto Sprint che lui stesso ha ideato per cercare una soluzione innovativa a questo problema, con un progetto che tiene insieme pubblico e privato in Europa. Ecco, intanto, che cosa ha determinato l'allungamento della vita? Certo, la medicina. Le malattie cardiovascolari e cerebrovascolari sono in netta flessione, sono ancora la prima causa di morte, ma sono in netta flessione. E questo è un dato fondamentale, perché il cancro, nonostante molti aspetti positivi, non è esattamente così. Poi c'è il benessere ha giocato un suo ruolo nell'invecchiamento e nella longevità. L'ondata di caldo sono morti quelli che avevano una condizione socio-economica modesta. I benestanti hanno campato tutti uguali. Quindi questo è un po' la novità che ha determinato questi ultimi 50 anni, medicina e benessere. Quando si invecchia? Si invecchia quando il cammino si fa lento, quando il cammino si fa impacciato, quando hai bisogno di qualcuno a cui appoggiarti perché hai paura di cadere. Questa roba qui si chiama fragilità. Cioè, professor Bernabei, cosa vuol dire fragilità? È il primo segno e la fotografia dell'invecchiamento, questo rallentamento che è dipeso da una roba che spesso si trascura. Si perde la massa muscolare. A 35 anni abbiamo 32 kg di muscoli. A 75 anni, sapete quanti ce ne abbiamo? 10. Abbiamo perso 22 kg di muscoli. E questo è il segno decisivo dell'essere vecchio, e questo che condiziona quella fragilità, si riduce la performance fisica, si riduce la qualità della vita. Quando diventi disabile è lì che si gioca la partita, perché se riesci a non diventare disabile puoi ancora tornare indietro. La disabilità, i giochi sono fatti. Professor Bernabei, c'è un modo per capire se si è rallentati? La soglia, il gioco, e devono essere capaci di fare in un quarto d'ora, in meno di un quarto d'ora senza aiuti, 400 metri. È lo standard, sono due blocks della quinta strada. È il colonnato di San Pietro. Cioè abbiamo rivoltato la frittata. Non andiamo a studiare il diabete, l'ipertensione, il cancro della prostata, anche perché ognuno li esprimerà in modo diverso. Andiamo a studiare questa persona, queste persone, che non sono disabili ma sono fragili. Ecco, questo è il bersaglio dei medici coinvolti nel progetto Sprint per la lotta all'invecchiamento. Il bersaglio è la disabilità. Quindi, professor Bernabei, bisogna preoccuparsi più della fragilità che delle malattie. Tu puoi avere un mucchio di malattie, ma se non sei disabile non muori. Puoi avere zero malattie, ma sei disabile muori. Questo vuol dire questa doppia linea. Per cui la fragilità è il marker dell'invecchiamento, la disabilità è il punto di non ritorno. Allora bisogna cominciare a lavorare prima, quando c'è il problema della fragilità, perché quando c'è il problema della disabilità i giochi sono fatti. E su questa la scommessa di Sprint. Non le malattie, ma la disabilità porta all'incapacità di vivere una vita autonoma ed autosufficiente, che tutti, oggi anche i politici, iniziano a intuire come un grosso problema per il presente e per il futuro. Ecco, ma farmaci adatti per impedire o prevenire la fragilità, professor Bernabei, esistono? Cioè abbiamo un mucchio di farmaci per il mucchio di malattie che sono tipiche dell'invecchiamento e sono la lista più o meno infinita delle malattie. Il problema però è che, ed è questa la rivoluzione, ormai si dice che è finita l'epoca della malattia. La malattia non è più nemmeno tanto importante, ha perso anche un po' della sua nobiltà, perché oramai i nostri vecchi, diabete, ictus, insufficienza renale, infarto, BPCO, spesso ce l'hanno tutte insieme. Allora il problema è quello della multimorbidità, il problema è quello delle molte malattie insieme, ma molte malattie insieme per le quali non abbiamo nessun farmaco, perché non c'è il pillolone per tutte queste malattie, e certamente non abbiamo nessun farmaco per l'invecchiamento. ci sono molti ciarlatani che ci provano, no? Avete sentito parlare ormone della crescita, testosterone, DEA e quant'altro. Ma il problema è ancora più complicato, perché non solo non ci abbiamo farmaci, ma anche le metodologie tradizionali, l'esame obiettivo, che è il patrimonio di tutti i medici, palpare le pance, sentire i polmoni, non ce la fa più. Professor Pecorelli, presidente dell'AIFA, dell'Agenzia Italiana per il Farmaco, quindi non abbiamo nessun farmaco efficace per gli over 65, cioè per le persone che hanno più di 65 anni? Lei pensi solo una cosa. 67% dei farmaci venduti o utilizzati nel nostro paese sono per le persone che hanno più di 65 anni. Quindi il vero mercato, chiamiamolo così, gli utilizzatori sono questi. Solo il 32,5% dei farmaci sono in commercio e utilizzati da queste persone sono state provate su persone con più di 65 anni. Con il progetto Sprint si vuole rivoluzionare, si prova a cercare la strada per rivoluzionare la metodologia con cui i medici fino ad oggi hanno approcciato il problema dell'invecchiamento. Oltre naturalmente a sviluppare, a tentare di sviluppare dei farmaci efficaci proprio per contrastare la fragilità degli ultra 65enni. Professor Bernabei, qual è la terapia? La terapia è un esercizio fisico programmato e però feroce. Queste persone devono fare tutta la settimana 3 volte nei nostri centri, sono 11 centri in tutta Europa e 2 volte a casa, fare questi esercizi aerobici e contro resistenza e di stretching, come si dice. Sono esercizi standardizzati e sequenziati. Questo è il primo pezzo della ricetta o della multicomponenza. Il secondo intervento è che i vecchi sono ipernutriti. Allora bisogna cercare quello che hanno mangiato, si chiama last 3-day recall, il ricostruire quello che hai mangiato negli ultimi 3 giorni per vedere se non sei ipo o iper, e soprattutto assicurarsi che si abbiano il numero di proteine importanti per l'invecchiamento, 1.2 grammi per chilo al giorno. Queste sono leggi che sono normalmente evase, e quindi bisogna cercare di riportare con l'esercizio fisico e con l'adeguata nutrizione la normalità, in modo tale che ci sia la benzina per costruire questo muscolo, se no è fatale che torni indietro e che sempre di più sarai lento. Ci abbiamo anche l'ausilio della tecnologia, perché di fatto oggi la tecnologia dà una mano a tenere botta, e verranno dotati di questo speciale orologio che semplicemente dirà intanto se cadono, che è uno dei marchi di invecchiamento, ma poi diranno quanti metri ha fatto al giorno, quanti passi ha fatto questa persona, e allora eventualmente verrà corretta e si cercherà di far sì che vada a fare i passi giusti. E che cosa vi aspettate? Ci aspettiamo in questi anni di andare a vedere queste cose, che venga mantenuta la capacità di percorrere questi 400 metri, che la performance fisica sia quindi migliorata, che la massa muscolare non solo non diminuisca ma aumenti, che anche la capoccia segua tutti questi miglioramenti, che la qualità della vita sia confortata, che si muoia di meno, ma soprattutto che non si cada dentro il buco nero della disabilità. Questa è la scommessa di Sprint. Professor Bernabei, quanto costa il progetto Sprint? Questo giochetto costerà alla Commissione Europea e all'IMI 50 milioni di euro. Sono cifre, credo, per la prima volta così cospicue in questo campo. È il segno che sta cambiando la cultura dell'Europa e che quindi anche la cultura dell'Italia forzosamente non può rimanere la stessa. 800 24 00 24, il numero verde, 349 238 6666, sms, pubblicità. Mix 24. Chi l'avrebbe detto che anche alla mia età ci fosse un po' da ridere? Non l'avrei mai detto che a metà di un libro si potesse chiudere. Oggi cosa resta se l'amore non si fa più sulle nuvole? Ma i ispirato da dove questa bellissima canzone? In metropolitana, in metropolitano ho incontrato un cigno rigorosamente nero, e questo cigno rigorosamente nero aveva un suo andare grattato su questo ritmo apparentemente sereno, apparentemente dolce, ma che in atto aveva una sorta di infarto di sentimento e di gioia. E quell'immagine, tutto è placido, tutto è sereno, ma nel frattempo mangiava le unghie alla vita, e chi non muore si ripete. Allora, è Dente ed è il titolo Invece Tu. Sì, no, l'ha messo uno dei miei album preferiti. Ah, meraviglioso. Vediamo se le bolle sono all'altezza della canzone. Bravo. Cosa bolle? Nella pentola di Mario. Salute a te, Ali. Signore. Buonasera, sceriffo. Il tenente Lawrence ha già conosciuto lo sceriffo Ali, mi pare. Sì, Altezza. Ed ora Selim lo splendore. Nello splendore del mezzogiorno e nelle tenebre della notte, il tuo Dio non ti ha dimenticato, come non è in collera con te. E certamente il futuro sarà per te migliore del passato. E questo era il dialogo nella tenda, Lawrence d'Arabia, bellissimo film, visto non so più quante bellissimo volte, ogni volta da rivedere, e ahimè serve a introdurci invece alla tragedia di Kobani. Secondo il presidente della Turchia Erdogan, la città è perduta, e lo stesso Erdogan è perduta senza che nessuno abbia fatto niente, praticamente niente, questa è la cosa incredibile, sì, neanche le sue truppe. E Erdogan poi ha invocato un intervento di terra in Siria e in Iraq di una coalizione che virtualmente c'è, solo che materialmente non mette quelli che si chiamano boots on the ground, cioè gli stivali sul terreno. Quindi è un grossissimo problema. I quartieri di Kobani stanno cadendo uno a uno. Pare che abbiano ucciso tra l'altro 400 miliziani curdi nelle ultime battaglie. Secondo il tesoro americano, ISIS guadagna $1 milione al giorno. Parliamo del gruppo terroristico meglio finanziato del mondo. Cioè vendendo petrolio? Vendendo petrolio, hanno saccheggiato la banca centrale dell'Iraq quando sono arrivati nelle città importanti. Sì. E ieri per la prima volta si sono sentiti volare e sparare, quindi bombardare gli aerei americani. Ma la cosa incredibile è che un gruppo, un team di Fox News ha detto giornalisti, esatto, ha detto che nei 5 giorni precedenti nulla era praticamente successo. Quindi questi bombardamenti non si sa neanche su cosa siano fatti. Ma in teoria sui tank, e credo anche in pratica sui tank, sui carri armati di ISIS, è troppo tardi, sono già entrati in città, in vari quartieri, che fai? Poi devi fare una guerriglia urbana, se non hai i soldati non la fai, quindi i curdi sono destinati a morire in questa vicenda, che ha dell'incredibile, ripeto, è una cosa che grida, la vergogna del cosiddetto mondo che si crede civilizzato. No, è una delle tante, domani ci torneremo su questo tema naturalmente, intanto... Io non creo niente, lui. Io possecco e noi facciamo le regole. Le notizie, le guerre, la pace, le carestie, le sommosse, il prezzo di uno spillo. Tiriamo fuori i conigli dal cilindro mentre gli altri seduti si domandano come accidenti abbiamo fatto. Non sarai tanto ingenuo da credere che noi viviamo in una democrazia, vero Buddy? È il libero mercato e tu ne fai parte. Oh, il fantastico Gordon, ossia Gecko anche, nostra icona, guida, non so se spirituale ma certamente materiale, e ci introduce al dura realtà del mondo finanziario. C'è una notizia importantissima, perché dal 1 gennaio 2015 dovrebbe entrare in vigore un nuovo set di regole per il mercato dei derivati. È un mercato piccolo, sono sono in fondo solo 700 trilioni di dollari, insomma, abbastanza danni, sì. Diciamo che se crolla quello crolla tutto, e per molto tempo infatti tentano di tenerlo su in tutti i modi. C'è stato un accordo tra le principali 18 banche che operano in quel mercato, le autorità americane e i regolatori internazionali. Questo serve a evitare, diciamo, speculazioni selvagge, cosa a cui io non credo ovviamente, mentre serve a dare stabilità, cosa a cui credo molto di più. Tutto fatto per evitare, ripeto, un crash di un mercato che forse non è vitale per l'industria reale, ma lo è certamente per quella finanziaria. Quindi, Salamino! Terribile. Expo, Expo, l'esposizione, l'Expo famosa è a Milano. Però la struttura RAI è stata fatta a Roma, con una dependance a Milano, quindi è una bistruttura, giusto? Allora, oggi ho letto un servizio sul Fatto a firma di Carlo Tecce che mi ha inebriato. Inebriato per una sorta di gioco dei paradossi. Allora, 58 dipendenti, due sedi e un documentario di 800.000 euro. Il doppio avamposto, caro Mario. Ma sarà vero? Ma dai. Ho scritto il fatto. Il fatto è fatto. È un fatto. Allora, viene oltretutto c'è stata anche una telefonata di verifica. La RAI ha confermato. Cioè, ha confermato, ha detto che comunque il prodotto è di grande qualità. Un documentario di 800.000 euro in quadrilingue, ovviamente il cinese, però non sappiamo se il cantonese o il mandarino, forse sarà tutte e due pentalingue. Sì. 800.000 euro sono tantini, sono tanti. Vabbè, ma però bisogna vedere. 90 minuti, ma la cosa bella, sapete qual è? Sarà la traduzione. Secondo la lettura di questo articolo molto informato del Fatto, c'è stata anche una trattativa con l'Expo per avere questi 800.000 euro. Ovviamente l'Expo ha detto forse sono troppi e non glieli ha dati. Dai, e però glieli dà, che sorpresa, e però glieli dà Viale Mazzini. Ora, in attesa, perché sono sicuro che mi farete i vostri commenti, consentitemi, è vero, di è fare vero? Dei complimenti alla struttura Rai Expo, che oltretutto ha avuto un'apparizione nella vita in diretta su queste finestrelle, sono chiamate pillole, pastigliette, non so che cosa, però non era sono dei bellissimi spot, insomma, dei bellissimi spot che però secondo l'articolo di Tecce informato, questo bellissimo spot non era però fatto da Rai Expo ma da Rai 1 direttamente, cioè fatto in casa. Ma no, i fatti vostri va su Rai 2. No, che fatti vostri, era la vita in diretta. La vita in diretta. Vabbè, sono tutti uguali. È lì dove c'è la Leopoldina Maxima. Giusto. Allora io devo fare dei complimenti, e i complimenti non posso non farli che in questo modo. Veramente troppo. Troppo su. Sentiamo un po' la Tardelli, la nostra quota rosa. Che Sara parla così? Sara che canta così? Buttate la testa. Facciamo tutti un bel respiro, Pietrangelo, perché ci dobbiamo rilassare, perché così si ossigena un po' il cervello. Però questi respiri così pure le pietre sudano. Il mondo del calcio è sicuramente in affanno, poverino. Quindi, Pallotta, il proprietario della Roma, non si mischia a un americano, infatti, non si mischia alle baruffe del nostro calcio. Ha invitato tutti, dopo Juve-Roma, a fare un respiro profondo, anche lui, un respiro profondo e calmarsi. Emma Winter, la moglie di Agnelli, invece, continua a cinguettare, non la ferma più nessuno, e adesso pare delusa dalle donne perché le hanno chiesto di non avere un'opinione. Ecco, Emma, ti voglio venire in aiuto. Io un'opinione ce l'ho, e te lo dico da juventina. Magari sarebbe bello se le donne riuscissero ad essere inclusive e non invitare, come hai fatto tu, un campione e un simbolo del nostro calcio a lasciare il campionato. Quindi, Emma, breathe. Ammazza. Pubblicità. Pietrangelo, il canzoniere. In questi giorni, mentre t'aspettavo, immaginavo ogni particolare della giornata che avremmo passato insieme. Saremmo andati a rivedere i posti che più ci piacevano quando eravamo insieme. L'ultima parte di Venezia, verso la Marittima, dove è più facile baciarsi, perché le calli lì non passa mai nessuno e se qualcuno arriva lo senti da lontano. 800 24 00 24, numero verde, 349 238 6666, l'SMS. Mario, c'è ancora una bolla bellissima, sì. Se come penso dobbiamo aver fatto un bel lungo viaggio. Ercole, dove credi che siamo? In terra di Giudea. Allora, le 12 fatiche di Ercole per il compleanno di Putin sono diventate le 12 fatiche di Vladimir. L'ho visto sulla BBC, tra l'altro me l'ha segnalato Buttafuoco per primo. Non possiamo non raccontare i 12 dipinti che ritraggono Putin fare delle cose meravigliose. Putin contro il terrorismo ceceno, Putin contro l'idra delle sanzioni, Putin contro il bombardamento americano in Siria, Putin che combatte contro i cavalli della corruzione, Putin eroe olimpico, Putin contro i lupi dell'oligarchia, Putin che doma un toro ucraino e dunque viva l'impero! Così ci siamo giocati il visto americano. Il Parlamento non lo ascolta. Ha chiesto di risolvere con le riforme istituzionali e niente, non si risolve. Ha preteso che immediatamente si arrivi alle nomine dei giudici costituzionali e niente. Tutta flanella, melina, tempo perso. Insomma, Giorgio Napolitano non è più il re Giorgio di una volta, eccetto che per un fatto: portare in galera Francesco Storace. Nel 2007 il leader della destra disse indegno di Napolitano. Poi si sono anche incontrati, hanno risolto il tutto e tutto ciò era a seguito di una polemica sull'uso dei senatori a vita come pascolo privato della sinistra. La sostanza: il 21 ottobre ci sarà la sentenza a carico di Storace per vilipendio. È l'articolo 278 del codice penale. Allora, lo stesso Napolitano ha dichiarato che se lo tolgono per lui non è un problema. Ma Storace è imputato di un reato per il quale nessun altro è chiamato a rispondere. Per esempio non i grillini, che nell'ordine hanno detto a Napolitano: boia. Mamma mia. Poi è morto Giorgio. Ricordate il tempo di Faletti? Però dicevano quello sbagliato. Boia indegno dunque, il ministro tace e io, frugando negli archivi di quella bella trasmissione che faceva uno che sta seduto qui, ho trovato questa delizia. Tognazzi e Vianello che videro dei guai a causa di un presidente. Fantastico. Il presidente francese allora era De Gaulle, fu ricevuto da Dronchi, andarono, non mi ricordo a quale teatro, e sulla tenti hanno seguito l'esecuzione degli inni, poi terminata la Marsigliese, terminato l'inno italiano, si sono seduti e mentre De Gaulle ha trovato la sedia, la poltrona, Dronchi non la trovò. Perché l'aveva tolta nell'esagono. E sparì dietro il parapetto. Ecco, noi il giorno dopo andavamo in trasmissione, abbiamo fatto. Ci siamo fatti trovare in piedi anziché seduti a un tavolo, lui è caduto per terra quando siamo venuti a cadere. Come e detto, io ti ho detto: chi ti credi di essere? Io ti ho risposto: tutti possono cadere. Io troppo forte. 800 24 00 24, numero verde, SMS, 349 238 6666. Dobbiamo rispondere a Daniele che ci chiede: buongiorno Minoli, non ho capito in quanto tempo si devono percorrere i 400 metri per non diventare disabili. Il tempo è un quarto d'ora, quindi insomma secondo me Daniele vedrà che ce la fa. E intanto c'è il vincitore del canzoniere? No. Non hanno, vedi. Però è facilissimo. Vabbè, ma Pietrangelo, scusami. Allora, posso dare un aiuto? Dai. Sì. Allora, ambientato a Venezia, una grande storia d'amore. Gli americani, al solito, la copiarono con un grande successo che fu Love Story, ma l'originale è italiano, venetissimo, ed è una vabbè, vicenda speriamo d'amore. Che arrivi. Senti Sara, ce n'è una per te. Non è firmata, quindi non è carino. In genere non le leggo, però... Ma Sara Tardelli è lì in studio per colpa dell'assunzione obbligatoria? E la risposta è no, non è assunta. Assolutamente no. Qua nessuno di noi. Vabbè, ma adesso era Sara che faceva notizia. Liberi professionisti. La storia di oggi è una storia di uno degli uomini ombra del Führer, di Hitler, l'uomo che gestiva i fili della macchina del Terzo Reich. Si chiama Martin Bormann e alla sua fine è nato un giallo. A parlarcene sono due testimoni di eccezione, il figlio di Martin Bormann e Klaus Eichmann, il figlio dell'ufficiale dell'SS giustiziato a Gerusalemme. Tutte le inchieste sono state chiuse, la morte è stata dichiarata. Tra i denti di entrambi gli scheletri sono state ritrovate schegge di vetri. Per me è la prova che il decesso è avvenuto per suicidio. Lei è un vigliacco, signor Bormann. Può farsi dichiarare morto mille volte, spacciarsi per proprietario di una segheria in Cile, o ingegnere minerario in Bolivia, o mercante di caffè in Brasile, ma non riuscirà a sottrarsi alla giustizia. Può stare sicuro che farò tutto ciò che è in mio potere perché questo avvenga. Ecco, subito dopo il giornale radio con Marina Milone racconteremo la storia di Martin Bormann. Pubblicità.